inizia al buio qualunque mercato del mondo. In mezzo alla notte nei magazzini generali si carica e si scarica l'acquisto destinato al dettaglio. Uomini arrugginiti dal sonno si procurano il prodotto da esibire sui banchi. Il mercato, come il teatro, ha un sipario dietro il quale si allestisce la scena. È il posto più cordiale per l'incontro del genere umano, per un loro scambio in mezzo all'uguaglianza d'una piazza. Nei grandi magazzini, in fila col carrello, ognuno è solo con la propria spesa. Una strisciata alla macchina del prezzo, uno scivolo dentro un sacchetto, il pagamento e avanti un altro. Al mercato. Evviva l'opposto! Si grida, si cantano e si vantano le merci. Si chiama il passante, si offre all'assaggio, si contratta il prezzo. Tenga le alici fresche. Queste olive sono pietre zucche. Son gasciuti friarielle. Rose, che belle rose! Mentre il giorno si alzano le voci. Le donne sono le più capaci a vendere e a comprare. Gli uomini, che vivono da soli detti single per distinguerli dalle confezioni monouso, sbagliano spesa e girano spaesati. Viva le bancarelle del sud e del nord! Un giorno su un mercato in Finlandia ho comprato delle patate solo perché erano di varietà Van Gogh. Il mercato di Napoli è per me quello della domenica, dove è abolito anche il vago pretesto della fretta. Intorno ai colori squillanti li richiami. È bello, sano, è giusto perdere. Otiembo. Rauca mi piace a me, mo faceva solo mamma, a che mangi sposata a te, ne parlamme per ne parlare. Io non sono difficoltoso, ma lo vamme la mia incestuosa, ma lo vamme la mia incestuosa. Si va buo come vuoi tu, mo ci avesse ma per cercare. Tu che dici, chi sta Raul, e io mo mangio per mo mangiare, ma fa dicere una parola, chi sta carna capo un marola. Chi ste carna capo un marola? Si va buo come vuoi tu, mo ci avesse ma pocciocà. Ora uca ti piace a te, tu faceva suole mamma. Ma fa dicere una parola, chi ste carna capo un marola? Chi ste carna capo un marola? Na na na na na na. Al Turtlen, il tortellino. Il tortellino è stato servito a tavola per la prima volta a Bologna nel 1821 dalla signora Adelaide. Il tortellino non è una minestra, ma è la nobiltà della gastronomia bolognese. Il ricco si distinse dal povero anche per questo. Lui mangiava i tortellini tutti i giorni e il povero solo per Natale e buona grazia. Le ricche tiravano di scherma, ma le povere tiravano la sfoglia e il ricco dovette venire a patti, così il povero poté mangiare tortellini anche per Pasqua e per gli addobbi. La storia più affascinante vuole che l'inventore del tortellino si ispirasse all'ombelico di Venere. Ed è talmente piacevole la leggenda che oggi desideriamo farne protagonista il gran maestro di cucina, Bruno Tasselli. Una femmina di nome Zaira le ramversa sul canapè, le lenzuola di seta sul corpo e tasselli caldevoli c'è. Perlustrando i meandri tladora, le scoprì piano pian l'ombelico, axe plen piccolino e rotondo, che tasselli al gesso bit stupendo. Si schernì la bella Zaira. Un bel bligamo il resto l'hai visto, ti fa sempre arrivare in fella, ma perché non continui l'amplesso? Ma il turclen, specialità, donna Bugnais, assieniti a tavola, senti che favola, sente il turclen, al turclen. E ha in bolsa la bella e la buona, per convincere il cuoco Tasselli, c'è chi dice che giunse al traguardo, col fie grosso e il cuore a brindelli. Che bel brigo che avete Zaira, ma veda ben che rasa e fortuna, mi è venuta in mente una cosa, la sbanderca scapi in cuseina. Raduno sfogliarini e servienti, che sia fatta una splendida sfoglia, nus busche mortadella e la lonza, che è un bligel da fera memoria. Ma il turclen, specialità, donna Bugnais, assiediti a tavola, senti che favola, sente il turlen, al turlen. E provò, riprovò mille volte, col pensiero rivolto a Zaira. Oh, per un brigo non è mega facile, an esager basserete una sera. Alle tre meno cinque tasselli, e sul to ci sono riuscito, fanne un altro, fatene cento, per Bologna è un grande momento. Arrivò dalla bella Zaira, tutte bien col cappello da chef, scoperchiò la zuppiera d'argento, al tuo obbligo Zaira, leque! Ma il turlen, specialità, donna Bugnais, assiediti a tavola, senti che favola, sente il turlen, al turlen. Ma il turlen, specialità, donna Bugnais, assiediti a tavola, senti che favola, sente il turlen, al turlen, al turlen, al turlen. Senti, senti com'è buono, che profumo il tortellino, che profumo il tortellino, senti, senti. Alzo lo sguardo al soffitto, pavesato di salami che pendono da ghirlande natalizie come frutti dai rami del paese di Cuccagna. Tutto intorno, sulle alzate di marmo, l'abbondanza trionfa, nelle forme elaborate dalla civiltà e dall'arte. Nelle fette di patè di selvaggina, le corse e i voli della brughiera si fissano per sempre e si sublimano in un arazzo di sapori. Le gelatine di fagiano si distendono in cilindri grigio-rosa sormontati per autenticare la propria origine da due zampe uccellesche che come artigli si propendono da un blasone araldico o da un mobile rinascimentale. Attraverso gli involucri di gelatina spiccano i grossi nei di tartufo nero e si infila come bottoni sulla giubba d'un pierrot, come note d'una partitura. A costellare le rose, variegati aiole dei patè de foie gras, delle soppressate, le terrine, le gelatine, i ventagli di salmone, i fondi di carciofo guarniti come trofei. Il motivo conduttore dei dischetti di tartufo unifica la varietà delle sostanze come un nereggiare di abiti da sera in un veglione mascherato e contrassegna l'abbigliamento da festa dei cibi. Mm-hmm. rosso vivo del bue, il rosa chiaro del vitello, il rosso smorto dell'agnello e il rosso cupo del maiale. Avvampano vaste costate, tonde turne d'onda allo spessore foderato d'un nastro di lardo, contro filetti agili e slanciati, bistecche armate del rosso impugnabile, girali massicci e tutti magri, pezzi da bollito stratificati di magro e di grasso, arrosti che attendono lo spago che mi costringa a concentrarsi su se stessi. Poi i colori si attenuano, scalopi di vitello, lombate. Entro in cucina. Ci sono delle pentole pulite, un mestolo di legno che sembra fatto per dare da mangiare ad una regina, la cipolla tagliata fina fina che attira la malvasia, e una pernice da fare al forno. Nostra Signora delle cose da mangiare. Ma c'è gente alla porta. La signora Rosa che vuole qualcosa e mi attacca un bottone che non finisce più. Ritorno in cucina e la pernice non c'è più. Se n'è volata via, tutta bruciacchiata. Come farò? Ho fatto il voto a Nostra Signora delle cose da mangiare. Guardo l'immaginetta e vedo Nostra Signora che se la sta ridendo. Gesù Maria, sto impazzendo. E mentre la guardo, Nostra Signora comincia a cantare con voce melodiosa gnocchetti sardi con sugo alla campidanese. Oh mamma mia, che cos'è questa voce? Questa è Nostra Signora per davvero. Gesù. Un bel cinghialetto, piccolo piccolo, che mi ha portato mia cognata Lella da Tortolì. Il forno è bello caldo. Gesù, non ho acceso la candela benedetta. Se non l'accendo, Nostra Signora non sa quale grazia deve farmi. In amore, come in cucina, non conviene fare cose troppo complicate. E bisogna assaggiare il sapore di tutto. Non fare le cose misurate. Guarda l'amore, come se vedessi una cosa da mangiare speciale e delicata. Mangiala piano piano e senti in bocca il sapore che ha. Io mi metto a cucinare. Entran così, cassarola, no, brasca, dosa limpia. Una durra delina che va rifata può fare papà e una regina. Sa sciputa fina fina tira da malvasia, una pertigi può fare in su foto Nostra Signora sa cosa papà e Nostra Signora. Vado genti in terra chi sonata e signora Rosa chi ha con qualcosa ma attacca butto i canofini blu. Torna così e sa vertigi no due bru, si c'è bobata, tutta bruciata. Ai, come andata fai? Su vota Nostra Signora sa cosa e va fai. Castio si immagina ed è più Nostra Signora chi si indarri. Ai, Gesù Maria se macchian di me. E Nostra Signora si immagina ed ti casti a visti vidi di sti cantata con voci melodiose. Ma allora tu scompagna a sa campidanesa. Gesù Maria stai già voce. Ma allora tu scompagna a sa campidanesa. Come stai la signora Benedetti? Gesù. Dove porra così a balla gusto tano mi sanziane. Su spridune dubiti cubiti cuchi mabiti o tortueri con nada mia lella. Su porre bello budio pazzo signa cruci in su rosò e me pungio castia torra si immaginete Nostra Signora. Nostra Signora. Ces Una palluta candeba bene ida, chino da lu, non se signora, non tenita grazie de chi vai. Lo vai. E tu di gioco che mi bastigia, non te si di due mi dunai. Deu mi du gastio, tutto i disigio, non se signora, sa cosa va mai. Ma allora è tu compagna, sa campi da mesa. E non se signora, di tesi do papà. Ma allora è tu compagna, sa campi da mesa. I tenei, i tamannao, che in samori commenti così, lo povera fai cosa me da complicata. Ed intendi o ta stai, su sabori ed ogni cosa, e noi a fai tutta sa cosa a mesurata. Dai samori commenti così, è una cosa papai, speziali di vicata, paparina bella bella intendi buca. Su sapori chi vivai, Deo mi voglio cucinare. Allora è tu, ma allora è tu, compagna sa campi da mesa. E nostra signora di tesi do papà. Ma allora è tu, compagna sa campi da mesa. Itanao, itanao, itanao. Ma allora è tu, compagna sa campi da mesa. Nostra signora di tesi. Ma allora è tu scompagna sa campi da mesa. Chi stenna sto dai, e Luvetti, Luvetti, Luvetti, c'è pure un mascolo, piglia la fiocina, accidilo, accidilo, ah. Te pigliaro la femminella, gitto gitto un cialo cori, e chiancia di dolori. Ai ai ai ai e la barca la sciacinava e lo sangue ne corria e lo mascolo chiancia ai ai ai ai e lo mascolo pari a un pazzuto, ne dicia bella mia, non chianciri bella mia, non chianciri, dimmi ti a che affare. Rispunnio a femminella con filo file voci, scappa scappa amore mio, si notaci di lui. No, no, no, no, no, amore mio, se tu mori voglio morire, assieme a te, se tu mori amore mio voglio morire. Con un sarto si trova questa, cuglio cuglio cori a cori, e a così finio l'amore di due pesci sfortunati. Dai, dai, dai, c'è pure un mascolo, piglia la fiocina, accidilo, accidilo, ah! È una storia d'un pisci spada, storia d'amore. tutte le società, tutte le feste cominciano e finiscono, e impappate, e prima che s'accomodin le teste vogliono le pance essere accomodate. I preti, che non sono dei meno corti, fan 10 miglia per un desinare, o che si faccia l'ufficio dei morti, o la festa del santo titolare, se non v'è dopo la sua pappatoria, il salmo non finisce con la gloria. Si posero tutti e tre a tavola, ma nessuno di loro aveva appetito. Il povero gatto, sentendosi gravemente indisposto di stomaco, non poté mangiare altro che 35 triglie con salsa di pomodoro e 4 porzioni di trippa alla parmigiana. E perché la trippa non gli pareva condita abbastanza, si rifece 3 volte a chiedere il burro e il formaggio grattato. La volpe avrebbe spelluzzicato volentieri qualche cosa anche lei, ma siccome il medico le aveva ordinato una grandissima dieta, dovè contentarsi di una semplice lepre dolce e forte, con un leggerissimo contorno di pollastre ingrassate e di galletti di primo canto. Dopo la lepre, per tornagusto, si fece portare un cibreino di pernici, starne, conigli, ranocchi, lucertole e d'uva paradiso, e poi non volle altro. Aveva tanta nausea per il cibo, diceva lei, che non poteva costarsi nulla alla bocca. Quello che mangiò meno di tutti fu Pinocchio. Ordinò uno spicchio di noce e un cantuccio di pane e lasciò nel piatto ogni cosa. Ti sveglierai sull'indaco del mattino, quando la luce ha un piede in terra e l'altro in mare. Ti guarderai allo specchio d'un tegamino. Il cielo si guarda allo specchio della rugiada. Metterai la scopa usata in un angolo, che se dalla cappa scivola in cucina la strega. A furia di contare le paglie che ci sono, la cima è già piena, è già cucita. Cielo sereno, terra scura, carne tenera, non diventare nera, non ritornare dura.

il naso, il palato, la bocca intervengono insieme per cogliere le qualità del complesso. Le qualità del vino: maturo, misurato, pastoso al palato. La sua ampiezza, il carattere, l'equilibrio, la grassezza. Quando il profumo e il gusto durano a lungo, il vino è persistente. È corto quando le sensazioni gusto-olfattive durano poco. Un vino scarsamente acido risulta piatto. Sapido, sa di acidità notevole ma non eccessiva. Speziato, quando ha un profumo dovuto all'affinamento in botti di legno. Amabile, quando è dolce. Abboccato, se lo è leggermente. Corposo, se di notevole struttura. Strutturato, quando manifesta ricchezza e varietà nelle sue componenti olfattive e gustative. Disarmonico, quando il suo gusto è sbilanciato. Armonico, il contrario. Equilibrato, quando c'è un giusto rapporto tra sapore e aroma. Morbido, o dotato di rotondità, se c'è un buon equilibrio tra alcol e zuccheri. Pieno, se è di buon corpo e giusta alcolicità. Erbaceo, quando conserva profumi vegetali. Vinoso, se all'odorato ricorda il vino appena fatto, conservando il caratteristico profumo del mosto. Floreale, se prevalgono profumi leggeri e poco complessi, e ha una sua fragranza quando la sensazione olfattiva richiama pulizia e integrità del frutto. Fruttato, allora. O ammandorlato. Allappante, se troppo ricco di tannini. Grasso, se molto denso. Magro, se privo di corpo e di struttura. E ora è asciutto, abboccato, secco. Ora è asprigno, spretto, astringente, lievemente acidulo. Sollevo il calice dal gambo sottile. Sorseggio. Il vino ha un sapore drastico, astringente. Nel bere non posso fare a meno di trasalire. Eccoli. I profumi, la luce, il caldo. Tutti distillati in questo liquido giallo. Infuocato. Dietro la schiena, tra le scapole, un che di secco, di spalancato, si ravvolge dolcemente e piano piano si addormenta. È l'estasi, la liberazione. La sbarra al fondo della gola si abbassa, Parole e vocaboli si affollano, si ammucchiano, premono gli uni sugli altri. Non importa quello che dico, affollandosi, palpitante come un uccello, una frase attraversa lo spazio vuoto che ci separa. Appoggiarsi sulle tue labbra. Mi riempio di nuovo il bicchiere. E i veli tra noi cadono. Penetro nel calore e nell'intimità di un'altra anima. Quando avevo 8 anni, abitavamo in Vico Ascensione a Chiaia, numero 13. In questa traversa di Via dei Mille, nelle prime ore del mattino, si celebrava un rito particolare. Si abbrustoliva il caffè, già che a comprarlo crudo si risparmiava, e tostarlo in casa costava solo pazienza e abilità. Ogni 1 o 2 settimane si preparava la quantità necessaria, a seconda del bisogno, delle finanze e della golosità di ciascuna famiglia. E poiché, ovviamente, le date della cerimonia non coincidevano, ogni giorno c'era qualche donna o qualche nonno appollaiati sui terrazzini o seduti in balcone a girare la manovella dell'abbrustolaturo. Girando la manovella, i chicchi si rovesciavano su se stessi, cadendo e ricadendo sulla parte infuocata del cilindro fino a raggiungere il giusto punto di cottura, color manto di Monaco. Ad ogni colpo di maestro si alzavano nuvole di fumo che spandevano intorno un aroma delizioso, penetrante e irresistibile. Anche io, che poltrivo a letto, non appena questo seducente profumo mi arrivava al naso, e arrivava perfino quando le finestre erano chiuse, saltavo giù dal letto pieno di energia e felice di iniziare una nuova giornata. Ecco che, prima ancora di aver ottenuto il permesso di berlo, il caffè mi faceva da sveglia ed era diventato il simbolo del giorno che inizia. L'odore del caffè, appena tostato, mi seguiva mentre mi lavavo, mi vestivo, mangiavo con appetito a zuppa e latte e mentre scendevo le scale. Arrivato in strada, l'odore si sentiva un po' di meno perché il fumo tende più a salire che a scendere, ma ne ero egualmente consapevole attraverso le voci che ascoltavo. Ah, magadduri caffè, e che bellezza. Signor, l'ha fatto caffè? Come no? Noi lo facciamo 2 volte alla settimana. Teniamo nonno che non la contenda nessuno, e così lo fa lui, personalmente. Ah. Poi spesso, prima d'essere inghiottito dal portone della scuola, mi arrivava all'orecchio di un solo chianello di fronte. Sorbiva una tazzina di caffè prima di iniziare il lavoro e quella era di un'eloquenza eccezionale. Mi trasparivano piacere, soddisfazione, sensualità, pagamento, golosità e addirittura sorpresa e rapimento. Tutte cose che poi da grande avrei provato anch'io, ma che ad 8 anni. E mi facevano venire voglia di ridere a me. Vorrei sapere perché si me vedita, facita sempre faccia amareggiata, ma voi quanto più brutta ve facite, più bella all'occhio mi va presentata. Imo non saccia si vinna accorgita, ma così modo e brigida, tazza caffè parita, sotto tenito zucchero in coppa marasita, ma i tante che già avuta e in tante che già girà, con dolce sotto tazza fino a mocca ma d'arrivà. Più tempo passa e più va raffreddata, ma c'è per riscaldare caffè squisita, o belle casi pure da gelate, si dà delizia do caffè gradita. facenna concorrenza limonata. Ma questi modi brigida, tazze caffè parite, sotto tenito zucchero in coppa marasita, ma i tante che già avuta, e i tante che già girà, con dolce sotto tazza fino a mocca ma d'arrivà. Voi siete mamma terra passatore, ehi bellezza mie figli cartare, se voi vi divertite a cagnacore, i faccio carte per senza danare, bella pareglia fosse ma fa amore. Ma così modo i brigida, tazze caffè parite, sotto tenito zucchero e coppa marasita, ma i tanto che già avuta, e i tanto che già girà, con dolce sotto tazza fino a mocca ma d'arrivà. Ma così modo i brigida, tazze caffè parite, sotto tenito zucchero e coppa marasita, ma i tanto che già avuta, e i tanto che già girà, con dolce sotto tazza fino a mocca ma d'arrivà.